Bentornati su Monarchia Interiore, un podcast dedicato alla diffusione e alla salvaguardia di informazioni e conoscenze riguardanti la libertà. Io sono Francesco Sani, oggi è il 9 aprile 2026, il mio sito è monarchiainteriore.com e sono qui con Giulia Rodighiero, quindi ciao Giulia e bentornata. Ciao Francesco, ciao a tutti, sì, sono Giulia, il mio sito è giuliarodi.com. E prima di tutto oggi vorrei fare un ringraziamento, vorrei ringraziare l'autore della nostra colonna sonora, Gino Volante, e anche ricordare dove si può trovare questo podcast. Siamo su molte delle piattaforme più utilizzate di podcast che trovate in rete, Spreaker e iHeart. Dovremmo essere su Spotify, siamo su Apple Podcasts, e credo non siano le sole, penso ce ne siano anche altre. E inoltre potete trovarci su Odyssey e Substack, che probabilmente sono quelle forse un po' più sicure dal punto di vista di eventuali censure o cancellazioni. Speriamo di no, ma se si verificasse l'eliminazione dal resto delle piattaforme mainstream, quelli sono i posti dove probabilmente potrete continuare a trovarci, quindi Odyssey e Substack. E naturalmente anche su YouTube, siamo lì per qualcuno che segue dall'estero, non parla italiano e ha bisogno dei sottotitoli, quindi quello forse è il motivo principale per cui siamo su YouTube, però potete trovarci anche lì e naturalmente pubblichiamo è pubblicato nel mio sito e Monarchia Interiore e anche nel tuo, Giulia, adesso, quindi... Sì, metto il link, sì. Quindi ecco dove trovarci. E anche un'altra cosa importante, che diciamo adesso che gli episodi non sono tanti, si può ancora recuperare abbastanza facilmente, che è importante partire dall'inizio, cioè dall'episodio 0 in poi, e andare in ordine, perché è questo il modo in cui è strutturato questo podcast, quindi è consigliabile, è necessario anche partire dall'inizio. E se vogliamo la verità, dobbiamo impegnarci per essa tanto quanto ci impegniamo per l'oro. L'altra volta ho chiuso con una citazione di Albert Churchward. Oggi invece inizio sempre con una sua citazione, questa. E ne ho anche un'altra. Deve essere dura per coloro che hanno preso l'autorità per verità e non la verità per autorità. E questa è di Gerald Massey. Parole su cui sarebbe veramente necessario soffermarsi a riflettere molto. E l'altra volta abbiamo detto che la verità è semplice come definizione, ma può essere complessa, la sua scoperta può essere complessa o può essere complesso dimostrare alcune verità. Però il fatto che la definizione, che anche solo la definizione sia semplice, rende le persone perplesse o le mette in difficoltà, perché ai nostri occhi anche solo la sua definizione è stata offuscata, è stata resa più complessa di quello che è in realtà. E noi siamo stati abituati, forse anche ammaestrati proprio alla complessità di alcuni concetti, a ritenere alcuni concetti molto complessi quando in realtà spesso non lo sono, e quindi a volte rigettiamo anche delle definizioni che ci sembrano troppo semplici. E poi abbiamo detto che la verità esiste sempre e comunque, in ogni momento, e non può essere distrutta in sé per sé. Però l'umanità, sì, l'umanità può essere distrutta e può autodistruggersi, e anche la conoscenza può essere distrutta. La conoscenza può venire non solo nascosta, ma anche completamente eliminata. Quindi questo rischio è concreto, che la conoscenza si perda completamente. Quindi l'umanità, noi che siamo il veicolo per diffondere e per sostenere la verità, ricordiamoci che noi possiamo venire distrutti. Quindi anche questo è importante, sempre da tenere in considerazione. Un'altra cosa sulla verità è che la verità non è un concetto e non è qualcosa che è accomodante. Infatti è spesso in realtà belligerante, bellicosa, combattiva, proprio perché distrugge e sgretola le falsità e anche il controllo mentale di cui molti sono ancora preda, e anche le idee, le presupposizioni che molti hanno e a cui continuano ad aggrapparsi anche se sono false. Quindi ci tenevo a dire anche questo. Ne abbiamo già parlato e non è qualcosa che necessariamente faccia stare bene o che faciliti anche i rapporti con gli altri, soprattutto in questo periodo storico, nel periodo dell'inganno universale, come avrebbe detto Orwell, che diceva che nell'inganno universale dire la verità era un atto rivoluzionario, e infatti è così. E qual è quel com'è che si dice? Anche se tutti pensano qualcosa che è sbagliato e tu sei l'unico che la pensa diversamente, ma è vero, hai ragione tu. Credo che sia una citazione di Gandhi. Ecco, sì. Che diceva, sì, parafrasando, diceva che anche se tutti hanno un'idea diversa e tu sei il solo che sa la verità, e quella la verità resta la verità. Resta quella. E tra l'altro, l'altra volta abbiamo parlato delle varie idee di negazione, le varie idee e ideologie che negano l'esistenza della verità. Sì. E abbiamo detto anche come queste siano praticamente tutte autocontraddittorie, come si autocontraddicano. Un'altra cosa da dire è infatti come potremmo conoscere o scoprire una qualsiasi cosa se la verità non esistesse. Si va dalle scoperte scientifiche ai ritrovati tecnologici, eccetera, eccetera. Veramente, come potremmo avere un'idea o fare una scoperta o appunto sapere qualcosa se non ci fosse un punto fermo, un punto vero, un punto di verità a cui arrivare? Sì, assolutamente. E c'è anche un'altra cosa che vorrei dire, perché lo sento dire molto spesso, anche recentemente in un'intervista non in italiano, ma vorrei dire che la soluzione non sarà tecnologica, non sarà economica, men che meno sarà politica, con tutto quello poi che ne consegue, da geopolitica, sociopolitica, socioeconomica, eccetera. No? La soluzione è una soluzione morale. È una soluzione, se vogliamo, spirituale, perché per esempio sentivo dire che per essere liberi bisogna non dipendere dal sistema per l'energia e avere delle tecnologie che ci rendano indipendenti. Queste non sono vere soluzioni. Sono soluzioni temporanee. Sono temporanee alcune non sono neanche applicabili nel sistema in cui viviamo, proprio perché, come abbiamo detto, vivendo sotto schiavitù, tantissime cose non abbiamo la libertà di farle. Quindi la soluzione sarà solamente morale. Sì. Tutte le altre purtroppo sono illusorie. E anche perché se non c'è la moralità di fondo, anche se questa comunità parallela viene costruita, poi si ricade nello stesso problema che si aveva prima. Ed è per questo che, diciamo, appunto, cioè anche per questo sono d'accordo con te, sì, la soluzione è morale. È un po' una questione del carro prima dei buoi, davanti ai buoi. Se non c'è quella comprensione, tutto quello che segue non ha le fondamenta giuste per diventare quello che si vorrebbe diventasse. Esatto, e abbiamo anche un tempo limitato a disposizione per poterlo capire. Non abbiamo tutto il tempo che vogliamo, no, non abbiamo tutto il tempo del mondo, come dice la canzone della colonna sonora di 007 al servizio segreto di Sua Maestà. Ecco, noi tutto il tempo del mondo non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo rendercene conto, prenderne atto e agire anche di conseguenza, per comprendere anche queste conoscenze e avere questi requisiti necessari per poi poterci effettivamente liberare. Sì, non abbiamo tutto il tempo che vogliamo. E purtroppo no. Ma parlando di scoprire la verità, oggi ci occuperemo delle, o inizieremo a occuparci delle arti liberali, che sono un metodo di scoperta della verità o per giungervi il più vicino possibile. Queste arti liberali sono composte dal trivio, in latino trivium, e dal quadrivio, quadrivium, quindi sono 3 più 4, sono 7 in tutto, un altro numero altamente simbolico. E il trivio è l'arte del linguaggio e del pensiero, quindi riguarda la mente, riguarda la conoscenza di sé, mentre il quadrivio ha a che vedere con il numero e con la materia, e riguarda la conoscenza del mondo. E noi abbiamo menzionato alcune volte le carte dei tarocchi, qui mi viene in mente la, la carta sempre del matto, che rappresenta il sé, la conoscenza di sé, e poi c'è il mondo, la carta del mondo, invece la conoscenza della la realtà circostante, appunto, del mondo in cui ci troviamo. E il trivio è un corpo di apprendimento che è stato perfezionato in età medievale, ma le cui radici risalgono a molto più indietro, nell'epoca classica greca e poi romana, e anche, devo dire, molto prima, risale anche a molto prima, probabilmente va indietro fino a Babilonia e penso anche all'Antico Egitto. Il trivio è stato definito un corso di lucidità di pensiero e buonsenso di 2500 anni, ma come abbiamo detto in realtà molto più vecchio di così. Fa parte delle arti liberali. Le arti liberali erano distinte dalle arti cosiddette servili, che insegnavano materie pratiche e utilitarie, appunto perché poi si fosse in grado di servire, sia di servire altri, di servire, tra virgolette, la società, e imparare un mestiere per guadagnarsi da vivere. Mentre le arti liberali insegnavano come vivere. Permettevano e permettono di elevarsi al di sopra dell'ambiente materiale per coltivare il proprio intelletto, la propria ragione e direi anche la propria intelligenza e vivere quindi una vita più libera nell'acquisizione della verità. E sono materie che non sono caratterizzate da una mera funzione utilitaristica, ma che allenano e affinano le facoltà dello studente. E la padronanza di queste materie libere, da cui appunto liberali, fornisce le fondamenta da cui apprendere poi tutte le altre materie. E le materie da cui è composto il trivio sono grammatica, logica e retorica, ma comprendono anche eufonia, poesia e etica, questa molto importante e sarà uno degli argomenti fondamentali di cui ci occuperemo in questo podcast, ma che già cominceremo a vedere oggi, proprio perché l'etica e la morale sono comprese nello studio delle arti liberali. Già da qui si può capire come mai non vengano veramente insegnate in maniera diffusa tra il pubblico. L'ordine grammatica, logica, retorica è stato dato, sembra, già da Aristotele. A volte la logica viene messa prima, perché senza logica poi non si ha neanche il resto. La logica è compresa sia nella grammatica sia nella retorica, ma diciamo l'ordine canonico è quello di grammatica, logica e retorica. E lo scopo del trivio è giungere alla verità, attraverso la domanda più importante che ci possiamo porre, che è perché. Perché è la domanda più importante, senza la quale non si arriva alla verità. La logica è stata definita l'arte del pensiero e sono le regole tramite cui dedurre o ricavare la verità e distinguerla dalla falsità. La grammatica invece è l'arte di inventare simboli e combinarli per esprimere pensieri. Quindi è anche importante dal punto di vista simbolico e noi non abbiamo, spesso tendiamo a sottovalutare questo aspetto della nostra realtà, ma siamo infatti sempre circondati da simboli, comprese le lettere dell'alfabeto e i numeri. Molti non si rendono conto di questo, ma in realtà è così, siamo sempre circondati e usiamo costantemente simboli. La retorica invece è l'arte del comunicare pensieri da una persona all'altra, da una mente all'altra. È l'adattamento del linguaggio anche alle circostanze in cui ci troviamo. E questa, la retorica, è considerata l'arte maestra del trivio, perché presuppone e utilizza la grammatica e la logica. Come abbiamo detto, è l'arte della comunicazione mediante simboli di idee riguardanti la nostra realtà. E la ragione è quella che ci permette di pianificare, comprendere, interagire e affrontare determinate situazioni. E la logica è quella che si occupa delle leggi con cui la ragione opera e di cosa rende un'argomentazione valida e un'altra sbagliata. A volte la logica viene anche detta dialettica, però in realtà non sono esattamente la stessa cosa. Quello che ho potuto constatare, la dialettica riguarda la disputa, riguarda il botta e risposta, mentre la logica si occupa della validità di qualcosa. E questo ha anche a che vedere con come viene considerata la retorica, spesso ha anche una accezione un po' negativa, perché riguarda il fatto che la retorica si occupa di persuadere. La retorica è persuasiva, mentre la logica è convalidante, riguarda la la validità di un'affermazione o di una teoria o di un'argomentazione. Era per questo, per esempio, che il sofismo, che era considerato l'arte del convincimento, non della verità, il suo scopo era di convincere di qualcosa a prescindere se questa fosse vera o meno. Infatti era disprezzato da Socrate, Platone e Aristotele proprio per questo motivo, che riguardava il convincimento e non la validazione, scoprire se effettivamente qualcosa era vero oppure no. E questo è una cosa importante da considerare perché ci vediamo sottoposti praticamente sempre, fa parte anche del controllo mentale, il saper persuadere a discapito della verità, essere persuasi del falso. E forse potremmo anche far notare come non a caso è questo aspetto della retorica che viene insegnato, quel poco di retorica che viene insegnato a scuola, per la mia esperienza, è questo, è l'arte del dibattito fine a se stesso. Ti viene dato un argomento e devi convincere le persone che hai ragione tu, non quelli dell'altra squadra. Sì, quindi a prescindere anche qui dal completamente dalla verità. Senza il minimo riguardo per ciò che è vero. Sì, o morale. Esatto. La persuasione utilizza degli elementi che è utile capire, il logos, che sarebbe il discorso, secondo Aristotele era il discorso razionale, è un termine che si ritrova anche nella religione, in quella cristiana è la parola di Dio, e per convincere venivano usate il logos, il pathos e l'ethos, quindi c'era sì il discorso, la parola, il pathos che fa leva sulle emozioni, come abbiamo visto, e l'ethos, che in questo caso è il prestigio, la reputazione dell'oratore, di cui parleremo poi in seguito, perché ovviamente non sempre è detto che questo comporti la veridicità di un'affermazione. E questi tre elementi, sapientemente messi insieme, sapientemente sfruttati, potevano servire per persuadere, come abbiamo detto, anche per convincere un pubblico di cose anche non vere. Quindi non è detto che siano negativi di per sé, però è utile conoscere come vengono anche utilizzati per fuorviare il pubblico e per manipolarlo. E c'è una citazione importante di Aristotele che dice che il discorso razionale, il logos, come abbiamo detto, serve per rendere chiaro ciò che è benefico o dannoso e quindi anche cosa è giusto o ingiusto. Perché è una particolarità degli esseri umani, in confronto agli altri animali, possedere la percezione di ciò che è giusto o ingiusto. Un'altra citazione molto importante, direi. Sì, assolutamente sì. E la logica non riguarda le emozioni, ma riguarda l'intelletto e la cognizione razionale, mentre la grammatica esprime tutti gli stati di mente e di animo. E la retorica, poi, giudica come meglio poter comunicare. E questo è il trivio classico, è il trivio nella sua forma, diciamo, classica, composto da grammatica, logica e retorica. Abbiamo detto che poi c'è anche il quadrivio, che invece era composto da numero, geometria, armonia e cosmologia, oppure aritmetica, geometria, musica e astronomia. Ma c'è anche un modo esoterico di considerare il trivio e i suoi elementi. E qui dobbiamo dire che cosa significa esoterico, perché è un altro termine che è per la maggior parte incompreso. Si ha un'idea spesso del tutto errata di cosa voglia dire. Viene associato spesso a cose che non hanno niente a che vedere poi con ciò di cui si tratta realmente, tipo riti, rituali strani, stregoneria o magia nera o cose del genere, ma in realtà l'esoterismo è un insegnamento riservato a pochi che può essere segreto, ma non è detto, solamente che è comunicato a un gruppo ristretto o a un gruppo di iniziati, ed è una conoscenza che non è diffusa tra il pubblico generale, ma spesso non è neanche ricercata, non è neanche molto ricercata. E questo è l'esoterismo e la conoscenza esoterica, si tratta di questo. E il suo contrario invece è l'esoterismo, oppure exoterismo, che invece è ciò che è comunemente risaputo o più noto anche al grande pubblico. Sono due termini che derivano dal greco, esoterico viene da esoteros, che significa appunto interno, mentre esoterico o exoterico viene da exoteros, che significa esterno. La versione esoterica del trivio, nel suo senso più alto, è praticamente lo strumento di ricerca della verità. Praticamente è il metodo di come riuscire a conoscere e comprendere veramente qualcosa. Rispecchiando il trivium classico, si divide in tre fasi. La prima fase, che corrisponde alla grammatica, è la fase in cui, quando si approccia una materia, un tema, un problema, si raccoglie quanti più dati possibili da una vasta gamma di fonti senza avere pregiudizi per rispondere alle domande cosa, chi, quando e dove, formando così un corpo coerente di conoscenze. Nella seconda fase, una volta che si hanno tutti questi dati, bisogna poi elaborarli, analizzarli, filtrandoli ed eliminando tutte le contraddizioni, soprattutto distinguendo il falso dal vero e quindi cercando di avvicinarsi il più possibile alla verità. E questa fase di elaborazione corrisponde alla logica e ci rende in grado di comprendere e rispondere alla domanda del perché, della ragione, del significato vero di queste informazioni. Nella terza fase, infine, che corrisponde alla retorica, si è infine in grado di esprimere e utilizzare queste conoscenze nel mondo reale attraverso parole e azioni. Questa è la fase della comprensione e anche saggezza. Ed è importante da notare come la saggezza sia in realtà un'azione. È come vengono diffuse ed espresse la conoscenza e la comprensione per portare cambiamenti reali e positivi nel mondo reale. Sì, e le fasi che corrispondono nel trivio classico sono grammatica, logica e retorica. Retorica, sì. Passano conoscenza, comprensione e saggezza. Ci si riferisce anche a queste tre fasi con un termine, qualche volta con un termine un po' più legato alla tecnologia, termini più moderni, come la prima fase dell'input. Praticamente si fa una metafora del computer. C'è la prima fase dell'input, poi c'è l'elaborazione dei dati e poi c'è l'output finale del risultato che ottieni da questo processo. Utile per schematizzare in modo semplice le fasi del trivio, specialmente del trivio esoterico. Quindi c'è l'immissione di dati, l'elaborazione e poi il risultato in uscita. Esatto. Che corrisponde alla fase della saggezza. Quindi, come hai giustamente detto, la saggezza non è solo uno stato mentale, non riguarda solo la mente, ma è ciò che poi viene messo in pratica e viene esposto, viene detto nella realtà. Quello che poi alla fin fine può portare cambiamenti. Sì, perché corrisponde all'azione. Esatto. Questo è importante da capire perché il trivio, tra le altre cose, ci aiuta anche a comprendere il concetto della Trinità o Triade. Il concetto della Trinità lo ritroviamo in moltissime tradizioni, tra cui tradizioni religiose, però è anche l'idea della Trinità composta da pensieri, emozioni e azioni. Sì, giusto. E come dicevo all'inizio, è importante anche simbolicamente. Trivio rappresenta il numero 3, il triangolo, che ha a che fare con lo spirito, con la mente, come dicevamo. Il quadrivium, o quadrivio, è poi il numero 4, che ha a che vedere con la materia, con il mondo che ci circonda, è rappresentato dal quadrato. Quindi anche questo è un aspetto simbolico del trivio che è molto importante. Sì, anche questo rimanda all'aspetto più esoterico del trivio. Sì, e devo dire, già con lo studio del trivio classico, almeno quello che ho potuto constatare conoscendo questo metodo ormai da tempo, però quello che ho potuto vedere anche addentrandomici di più, andando più nello specifico, già solo con lo studio del trivio classico viene fornita un'apertura mentale e un metodo che è già incredibile, direi, visti anche poi gli standard odierni, anche quelli cosiddetti educativi. Questa conoscenza sarebbe già una vera educazione, metterebbe già su un'ottima strada, ecco, pur con le sue limitazioni che ci sono. Abbiamo detto che l'etica fa parte dello studio del trivio, dello studio delle arti liberali, e sarebbe già molto importante, già a questo livello, anche con le proprie limitazioni, che noi qui in questo programma proveremo a colmare, ecco. Volevo solo rimandare a quello che dicevi all'inizio, che lo studio del trivium di per sé coltiva la ragione e l'intelletto e dà le basi del pensiero critico praticamente. Anche solo studiando queste materie, una persona può affinare il proprio pensiero e imparare veramente come pensare, non cosa pensare. Sono d'accordo con te che già solo leggendo i libri sul trivio, su trivio classico, già lì si vede... Si vede la superiorità di questo tipo di metodologia. Adesso è difficile da immaginare le possibilità che verrebbero aperte se, se effettivamente si insegnassero, insegnasse il trivium a ragazzi giovani. Si avrebbe una popolazione veramente acculturata. Il trivium e il quadrivium. Se si tornasse a insegnare queste cose a quando è giusto impararle. Sì, e il trivio direi che... o le arti liberali direi che costituiscono un'educazione integrale. Esatto. Perché queste materie sono tutte collegate tra loro. Ed è questa poi il fatto che determina, quello che determina la superiorità di questo metodo educativo. Oggi impariamo, sì, impari la grammatica, forse a matematica fai un po' di logica, poi impari a fare i temi o a scrivere o più o meno a come scrivere un tema e simili, ma quello che si nota, o almeno quello che noto piuttosto chiaramente, anche ripensando agli anni scolastici, era proprio come tutto questo fosse scollegato. Non c'era un nesso, appunto parlando di logica, non c'era un nesso tra queste materie, che invece troviamo nelle arti liberali. E ho detto integrale anche perché, e questa è una cosa di cui ovviamente torneremo a parlare, ma non riguarda solo, non coltiva solo il puro intelletto e la fredda logica o il raziocinio, ma anche l'estro e anche l'intuito. Sì, esatto. Anche la parte più artistica ed estetica. Abbiamo detto il trivio comprende anche, per esempio, l'eufonia, che è l'impressione piacevole che lascia il suono di certe parole o proprio suoni collegati tra loro, e poi la poesia. Quindi c'è anche quell'aspetto di cui si occupa questo metodo. Quindi è anche un metodo che equilibra un po' tutti gli aspetti della nostra mente. E poi ovviamente c'è la parte di etica, che già sarebbe importante da tenere in considerazione. Poi approfondiremo di molto la questione, superando anche quello che viene comunicato, espresso in queste arti liberali. Quello che volevo anche dire è che con questa educazione integrale si formano persone che sono in grado di riconoscere, in teoria, si spera, idealmente sono persone in grado di riconoscere quando vengono manipolate e meno suscettibili a propagande varie, manipolazioni appunto. Quindi persone più, non so, la parola che mi viene in mente adesso è persone più forti, più resistenti, più allineate alla verità, più sagge forse, sì, alla fine più sagge, nel vero senso della parola. Sì, senz'altro. E questo mi porta a parlare delle fallacie. Giusto, sì. Scoprire una fallacia significa scoprire il motivo per cui la mente è stata ingannata nel considerare l'errore come verità. E le fallacie sono appunto degli errori di logica, che vengono commessi anche appositamente a scopo manipolativo, quando si spiega o si tenta di spiegare un'argomentazione o un concetto, un'idea, anche in un dibattito, oppure ma anche al di fuori dell'ambito del dibattito in generale, insomma. Ce ne sono molte di queste fallacie, ce ne sono diverse, queste fallacie logiche. Invito tutti ad approfondire sia lo studio del trivio e delle arti liberali, perché, come abbiamo detto, è molto interessante e fondamentale anche da scoprire e riscoprire. Noi non potremo occuparci di tutto quello che concerne le arti liberali qui nel programma, e anche per quanto riguarda le fallacie non ci addentreremo ovviamente in tutte quante, ma è una cosa che invito a guardare, a esaminare, e alcuni esempi... Sto ancora studiando ed esaminando io stessa. Sì, e alcuni esempi che potremmo fare, il primo direi che è l'andare fuori tema praticamente, cioè non rimanere, come si direbbe in latino, nell'argomentum ad rem, cioè parlare della cosa che stiamo effettivamente discutendo, ma a uscire, ma andare al di fuori, andare fuori tema, con qualcosa che ovviamente non c'entra niente, non è rilevante per quello di cui stiamo parlando o che stiamo tentando di dimostrare. Un'altra fallacia che ricorre molto spesso è quella dell'argomentum ad hominem, che è di fatto un attacco alla persona, un attacco personale a chi sta parlando, a chi sta esponendo, a chi è il nostro avversario. Non ci occupiamo più, non rimaniamo ad rem, non ci occupiamo più dell'argomento in questione, ma tentiamo di screditare la persona con cui stiamo discutendo, mediante appunto l'attacco personale a aspetti, cose che possono essere offese o considerazioni magari sull'aspetto, su delle trivialità anche, o cose che sappiamo di qualcuno, anche se non c'entrano niente con quello di cui si sta parlando. Molte di queste fallacie, tra l'altro, probabilmente sarete in grado di riconoscerle se pensiamo ad esempio al dibattito politico o cose simili. Vengono molto spesso usate, si riconoscono molto spesso in quell'ambito, non solo, ma sono piuttosto evidenti tra i vari politicanti, demagoghi, discorsi elettorali, proclami politici e simili, ecco. Sicuramente sì. E un'altra fallacia è l'argomentum ad verecundiam, che presupporrebbe la veridicità di qualcosa sulla base del fatto che chi la sta esponendo, proponendo, spiegando abbia un qualche prestigio o sia un personaggio rinomato, famoso, anche se magari poi non è proprio versato in quello di cui sta parlando, o quello che sta pubblicizzando. Questo lo vediamo spesso con molti testimonial, molti personaggi famosi che diventano testimonial di qualsiasi cosa e spesso anche di azioni nefaste che fa il potere o che fa lo Stato, che fanno le istituzioni, anche se magari quello che stanno approvando o pubblicizzando di quello magari non ci capiscono neanche niente, il che mi porta all'argomentum ad auctoritatem, che può avere legittimità, nel senso che esistono sì delle autorità in determinati campi che ne sanno di più rispetto magari ad altri, hanno più titolo e sono più credibili riguardo uno specifico argomento. Però ecco, anche non sempre questo è garanzia di legittimità, dobbiamo utilizzare il nostro discernimento e anche qui, e anche questo si è visto ovviamente basta pensare al Covid e tutti i cosiddetti esperti per cui noi ci dovevamo fidare solo per appello all'autorità, come si chiama, solo ad autoritatem. Ecco. Quindi sì, può avere più legittimità rispetto all'ad verecundiam, che non ne ha, può essere anche una fallacia. E un'altra è l'argomentum ad baculum, che praticamente cioè, di fatto è coercizione. Quando sei sotto minaccia, cioè, anche se hai ragione, ma vieni minacciato, c'è una minaccia contro di te, per cui, per esempio, anche se sì, hai ragione, ma se lo dici poi ti capita qualcosa, o insomma ti viene fatto capire che ci saranno delle conseguenze negative per te o per chi espone determinate argomentazioni. Poi sì, ce ne sono molti altri, ad misericordiam, e uno molto che devo dire si ritrova molto anche nella controinformazione o contronarrazione o nell'ambiente alternativo, che è l'argomentum ad antiquitatem, cioè presupporre la veridicità o la validità di qualcosa perché era ritenuta valida nell'antichità, oppure per tradizione antica, eccetera. Quindi anche quella è una cosa a cui prestare attenzione. Ovviamente l'antichità di qualcosa o che qualcosa venisse considerato vero o valido nell'antichità non è una prova, una garanzia che sia vero. Ce n'è un'altra, l'ultima che voglio dire, forse, che è interessante. Non ricordo se ha un nome latino o no, ma è praticamente la pretesa della risposta semplice a una domanda complessa. E l'ho voluta dire perché mi è capitato personalmente, diciamo, è stata applicata anche nei miei confronti questo tipo di fallacia, di fare una domanda complessa, la cui risposta deve essere per forza articolata, e non può essere altrimenti, non si può rispondere in maniera semplice in due parole, ma è quello che pretende l'interlocutore o quello che fa la domanda. E apparentemente poi quando devi rispondere in maniera articolata e complessa anche, questo apparentemente invalida completamente la tua argomentazione, perché non stai rispondendo, perché si pretende la risposta semplice. Dice, ma io volevo la risposta semplice, sei troppo, ti dilunghi troppo, è troppo complicato. E quindi questo in qualche modo magicamente renderebbe invalido, diciamo, il tuo tentativo di spiegazione. Ecco, questa è un'altra fallacia che ho incontrato anche personalmente, tra l'altro poi seguita forse anche da qualche ad hominem. Quindi sì, è interessante, ho voluto dire anche questa, ma ce ne sono svariate altre, ecco. Sì. Ce ne sono svariate altre. Lo studio delle fallacie è molto interessante e invito tutti a darci almeno un occhio, se non proprio studiarle a fondo. Sì, e sia per riconoscerle, sia anche per riconoscere quando siamo noi a incorrere, esatto, a incorrerci, sì, ecco, sì. Che può capitare, non è... È normale che possa capitare, anche perché alcune sono molto difficili da scoprire, molto difficili da capire anche quando uno ci sta cascando, per così dire. Però voglio dire anche un'altra cosa importante, fare una precisazione importante, perché attenzione, commettere questi errori di logica, incorrere, incappare in queste fallacie logiche, non vuol dire necessariamente che ciò che diciamo sia sbagliato. È magari solamente il modo in cui lo diciamo che teoricamente non torna, o è un modo scorretto, sbagliato con cui dire qualcosa, con cui provare, sì, argomentare qualcosa, però non vuol dire che quello che diciamo sia un errore. Abbiamo solamente commesso un attimo una... Forse abbiamo sbagliato o comunque avuto un approccio non ideale quando spieghiamo, quando tentiamo di spiegare qualcosa, ma ecco, non lo invalida. Quindi questo è importante da tenere a mente, perché magari poi dopo qualcuno potrebbe dire fallacia logica, quello che hai detto, tutto quello che hai detto è falso, quando in realtà non sì, è così. Sì, no, giusto, giusto. Magari arrivano i sofisti, i famosi sofisti. Sì, no, va di moda adesso... dibattiti online, ci sono certi personaggi che che li vedi che l'avversario non può dire nulla, indipendentemente dall'argomento, continuano a ribattere, questa è una fallacia così, quella è una fallacia così. Sì, facciamo attenzione, prestiamo attenzione. È diventato un po' di moda, ma sì. Nella maniera sbagliata, sì, direi. E ci sono degli esempi che ho visto anche mentre mi occupavo del trivio, degli esempi di fallace che riguardano cose tipo la politica. Potrei fare un esempio di una teorica fallacia, dire che siccome ci sono dei politici corrotti, tutta la politica è corrotta, o tutte le istituzioni sono corrotte. Questa, in teoria, è una fallacia. Sì, se noi prendiamo per legittimo e per valido il sistema. Altrimenti dovremmo sapere... come è il nostro caso, noi sappiamo che il sistema politico è completamente legittimo, in realtà non è neanche che sia corrotto, tra virgolette, ma è proprio è illegittimo a prescindere. E quindi occorre anche avere chiari alcuni concetti, utilizzare i propri mezzi, la propria conoscenza, comprensione e poi dopo la saggezza, e capire anche che oggi si tende a considerare alcune cose come valide e legittime, quando in realtà non lo sono. Ora ho fatto l'esempio, insomma, un esempio abbastanza eclatante, ce ne potrebbero essere altri. Quindi anche fare attenzione anche a... Oh, no, che ho il sospetto che di per sé questa è una fallacia. Ritenere vero il presupposto che hai, presumi che qualcosa sia vero quando senza... Sì, quando magari non lo è. perché non sappiamo, ecco. Che magari sì, non si sa, però. Non lo sappiamo e quindi lo riteniamo vero, sì. E il trivio e le arti liberali sono anche dei metodi scientifici veri e propri, non solo le materie del quadrivium, ma anche quelle del trivio. Il moderno metodo scientifico si basa sul trivio, e già se vediamo l'induzione scientifica è basata sulla fase della comprensione o elaborazione, come abbiamo visto, l'osservazione, l'analogia, l'ipotesi, l'analisi e il filtraggio, e poi la verifica dell'ipotesi. E torneremo a parlare poi anche del metodo scientifico e della scienza, però già volevo dire che il trivio è un metodo scientifico. Purtroppo non abbiamo libri o materiale bibliografico da fornire in italiano, Ci sono dei libri interessanti in inglese, però sono editi da Wooden Books, uno si chiama appunto Trivium e l'altro Quadrivium, molto interessanti. E poi c'è un libro scritto negli anni 40 da un insegnante universitaria americana negli Stati Uniti, Miriam Joseph, anzi Suor Miriam Joseph, perché era una religiosa, un appartenente a un ordine religioso. Anche l'altro libro sul Trivium è basato anche sul libro di Miriam Joseph, che è molto interessante. Però ecco, in italiano si può trovare del materiale in rete, già a partire da Wikipedia, ma ci sono anche, avevamo visto alcuni articoli. E ci sono degli articoli, dei blog, sì. Quindi sì, si può approfondire anche in italiano. Però purtroppo sì, un libro vero e proprio non l'abbiamo trovato. No, è un peccato che almeno il libro di Miriam Joseph non sia stato tradotto. C'è una cosa interessante nel libro, lì si parla di quattro sensi interiori che noi possediamo e che siamo in grado di utilizzare. Tutto questo comprende sempre nell'ambito dello studio del trivio e delle arti liberali, ed esemplifica ancora come non si occupi solamente dell'aspetto intellettuale, puramente intellettuale, ma vada anche oltre. E questi quattro sensi interiori, come vengono descritti nel libro, sono l'immaginazione, cioè l'incontro tra sensi e intelletto, la memoria sensoriale, la capacità di sintesi, che è interessante perché viene definita come il comprendere, il combinare varie informazioni e esperienze per formare una comprensione o una prospettiva. E questo mi ricorda la consapevolezza, quello che è la consapevolezza. È simile nella definizione, perché la consapevolezza è un altro termine che si sente dire molto in giro e significa riconoscere schemi e andamenti ricorrenti sia per quanto riguarda il sé sia per quanto riguarda il mondo circostante, quindi la realtà che ci circonda, la realtà in cui il sé opera ed esiste. E questa consapevolezza, questa capacità di comprensione, questa capacità di sintesi richiede il pensiero critico, richiede l'utilizzo del pensiero critico. E poi l'altro dei nostri sensi interiori è l'istinto. E poi, specialmente nella sua versione esoterica, ha a che vedere con il modo in cui noi creiamo la nostra realtà, nel bene e nel male. Perché voglio dire che i tre elementi del trivio che abbiamo chiamato esoterico sono la conoscenza, la comprensione e la saggezza, ma anche la mancanza di conoscenza, la mancanza di comprensione e la mancanza di saggezza. Quindi la presenza o la mancanza di questi tre elementi è, come poi diremo, come poi vedremo, è ciò che crea poi realtà diverse, ciò che manifesta determinate realtà. Esatto. E queste mancanze, se vogliamo, le ho anche sentite nel suo aspetto negativo, diciamo, l'ho anche sentito chiamare trivio oscuro, composto da ignoranza invece di conoscenza, confusione invece di comprensione e poi follia invece di saggezza. Ed inoltre aiuta nella comprensione del fatto che esistono condizioni al contorno che sono determinate, e poi c'è la libera scelta di quello che ognuno di noi poi può scegliere di fare, di compiere, che può andare contro queste condizioni al contorno, oppure no, e dipende da noi. E questo già si comprende con il trivio canonico, diciamo, classico. Abbiamo accennato l'altra volta, sicuramente ti ricorderai, al determinismo e al libero arbitrio. Ecco, il trivio, lo studio del trivio, come ho detto, aiuta anche a comprendere queste due dinamiche. E come dicevamo, il trivio attualmente non viene insegnato. Le sue parti sono sparpagliate qua e là nel corso dell'educazione, almeno di quella obbligatoria o di quella delle medie superiori. Sì, tutte sconnesse. Sì, sconnesse, separate, non collegate. E vediamo i risultati. C'è appunto poi una ragione specifica per tutto quello che abbiamo detto, ovviamente, che si conosca e che si studi, che si sappia, che si comprenda questa metodologia, non fa gli interessi, o meglio, che la grande massa la comprenda, non fa gli interessi del potere, che non vuole creare persone libere, ma vuole creare dei soggetti, dei sudditi e infine degli schiavi, che obbediscano o tutt'al più perdano tempo dietro i trucchetti, ad esempio, della politica. Ma l'importante è che riconoscano la legittimità del sistema e continuino a crederci. E poi anche un'altra cosa importante riguardo al trivio, direi fondamentale, specialmente per questo preciso momento che stiamo vivendo, è che lo studio e l'applicazione di queste arti o di questa scienza è la contromisura per la crescente incapacità di ragionamento e per il degrado delle nostre capacità sia intellettive che intelligenti, nel senso più ampio e generale e più completo, che adesso stanno ancora più peggiorando. Questa nostra capacità anche di usare la ragione sta sempre più peggiorando, anche con l'introduzione in ambito pubblico dell'intelligenza artificiale. Quindi ecco, il trivio e le arti liberali sono anche una soluzione e una contromisura contro questo problema che stiamo vivendo adesso e che molto probabilmente non potrà che peggiorare negli anni a venire. Anche da qui si capisce che questo argomento è di importanza anche vitale. Sì, ben detto, sono tutte precisazioni molto importanti da fare sul trivium. Concordo pienamente che con lo studio di queste materie possiamo avere la speranza di formare persone che poi saranno più libere di quelle che abbiamo adesso. Almeno Se mentalmente. almeno È mentalmente, da lì esatto. che si comincia. Sì, esatto. È un punto di partenza, sì. Dovrebbe essere un punto di partenza Sì, di la ciascuno di base, noi. Sì. un'ottima base educativa da cui partire. Esatto. E ho una citazione per concludere l'episodio, tratta dal libro di Miriam Joseph. L'atto umano dell'apprendere come pensare rende possibile la riflessione saggia e la trasformazione morale. E direi che è un'ottima considerazione conclusiva per questo episodio. Assolutamente fondamentale la nostra trasformazione morale, che è la soluzione, la vera soluzione. Quindi per oggi abbiamo concluso. La prossima volta dovremmo parlare anche un po' del quadrivio, ovviamente. Non so se hai qualche considerazione finale prima di concludere. Grazie per un'altra ottima citazione e spero che abbiamo incuriosito chi ci ascolta ad approfondire un po' di più cos'è il trivio e spero che abbiamo spiegato perché è così importante. Devo ammettere che il modo in cui viene usato, il modo in cui molti nei media alternativi, eccetera, si riferiscono al trivio, non avevo mai percepito esattamente l'importanza del trivium in senso classico. Tanti lo usano un po' come una frase in sé senza sapere veramente cosa c'è dietro. Si sente dire, per esempio, ah, se uso il tuo trivium per capire se è vero o falso, e non vuol dire niente. E invece c'è molto dentro il trivio classico in sé, ed è, come abbiamo ripetuto più volte, uno studio molto interessante e Sì, bisogna approfondirlo per capirne veramente l'importanza. sì, Non basta averlo esatto. Sì, sentito esatto. qualche Sì. volta, E ecco. quindi sì, no, grazie Francesco. Siamo in conclusione, quindi saluto tutti e ci sentiamo la prossima volta. Alla prossima!